tirare di tempesta. Che bufa. Yo, it's been a while since you first heard the Bugi style. Come on. Yo, ready, set, go, glowing with the flow. Riders on the storm, there's a killer on the road. Grupo Crudo, minor key 07, still a long way to heaven. Aria di tempesta che guasta la festa. Il cecchino s'apposta, mira alla testa. Resta un cumulo nembo grigio piombo. Soccombo al rombo di sto tuono. E c'è bombo, e c'è homo. E l'uragano si fa più vicino. Io clandestino per destino di vicissitudini. Ma mastino, mo mi mastico ste solitudini. Di liturgiche gincane a folli latitudini. Illudimi alla Houdini. In nomine domini. Assolvimi, risolvimi, esorcizzami a modi mi lingo. Ma preso dai miei demoni di fisso ti respiro. Spingo. E allora tizzami, appizzami, amo d'auto da fe, ma non abbiuro, va da sé, come Ulisse io mi spaccio per nessuno, navigo sto mare scuro, un cavaliere nudo e senza scudo, che per il gruppo crudo anche un fatto è un'interpretazione, prede della confusione, confidiamo nell'alchemica fusione, nella chimica dell'improvvisazione, ma la perturbazione s'avvicina, spinta da correnti inarrestabili, parto delle nostre stesse menti labili, della bile sprigionata ogni qualvolta ci sentiamo troppo deboli. Della mancata comprensione degli archetipi e dei simboli. Aria di tempesta fuori e dentro me. Aria di tempesta senza ma né se. Aria di tempesta e non ce n'è. Aria di tempesta fuori e dentro me. Aria di tempesta senza ma né se. Aria di tempesta e non ce n'è. Oscuri orizzonti, zero sconti, ci tocca stare pronti, gettare ponti che un istante dopo son sommersi come questi versi. E può darsi sia più facile a dirsi che a farsi, cancellarsi, reinventarsi, liberarsi, arsi come siamo dalla sete, forse è tempo di lavarsi, mondarsi, sottoporsi alla catarsi. Che catatombe post-atomiche ci attendono, si estendono già sotto i nostri piedi. Non le vedi, non mi credi, non ti basta quest'area di tempesta. Senza sosta cerco valida risposta all'interrogativo primordiale. Butta male quando la bufera sale. Batte alla mia porta il temporale. Fischia il vento e a stento sento il battito di sto memento. L'andamento lento di sto loop. L'elemento in più, l'elegante accento. L'estenuante attesa dell'avvento. Ovvero il giorno del giudizio. La fine del supplizio, il nuovo inizio. Un incipit propizio. Propagini di immagini che scendono, mi prendono, si stendono sul ritmo. Atmosfere nere, facce cere. Tutt'altro che sincere. E sono io l'artificiere faccia a faccia con l'ordigno. Ordita questa trama c'è bisogno di un tuo segno. Come Alessandro Magno sono schiacciato dal macigno del mio stesso sogno, dal mio disegno. Fisso che come Narciso finirò annegato nello stagno. Comincia a piovere e mo vediamo se mi bagno. Aria di tempesta fuori e dentro me. Aria di tempesta senza ma né se. Aria di tempesta e non ce n'è. Aria di tempesta fuori e dentro me. Aria di tempesta senza ma né se. Aria di tempesta e non ce n'è.